Chi è? Chi è? Antonello, mi ascolti? Antonello, mi ascolti? Mette bocco! Luca! C'è qualcuno? Non ce l'hanno. C'è qualcuno? Chi è? Chi è tu sì? E dove va? Grazie! Cosa stai facendo? Ah, io prendo i dai. C'è qualcuno? Oh, rispondimi. Oh, frate, mi resto il cazzo, rispondi. Oh, ah, io. Rispondi, frate. Pronto, c'è qualcuno? Oh, Corleone, c'è qualcuno? Nessuno, allora do un occhio che a Vittorio, vaffanculo. Chi è? Chi è? Bobboi! E beh, fidato, Dimitri, però beh. E a chi vediamo Graziano, alza che di giorno non dormo io. Ehi, di là tutti. E allora, come ti senti che entro un mito tuo, chi ti risi appena scendendo? Aspetta il telefono. E beh, nessuno sente giù. È il cane che sta telefonando, va. Ah, mi vigliura. E oggi non sente nessuno, adesso già vai, vedo quante cosa. Non sente nessuno. Ma con anima. Due ragazzine c'erano chiacchierando. E basta. E Tore non sentisci? Tore deve essere girato di Santa Valentina per il circuito. Chi così sempre in girella? E allora, due se no come te te sei pizzaccato. Come te un eremita. Vediamo se c'è Bacchisio. Attento Bacchisio, Tore, tutti sono andati a mangiarsi la pizza già. Che meri? Ma ci sono? Grazie, vieni col tuo. Ciao Tore, morbido sei. Che meri? Che meri? Sei uscito, grazie. E io, Mimmi. E beh, tuffo. Sì, dimmi. Tuffo. Eia. Che andando ti sei? Marmito sogno. A te comprare la stufa. Così grezza fa schifo. Vuole fatta bene, bella. Così grezza. Per brulare la fauci. Se la fai bella, bella tutta rifinita. Ah, te la compri? E tu falla, poi la vengo, no? Cosa compro senza vedere? Cioè Maria, tu la compri senza vedere. Cos'è? Ho capito, no? Grazie. La compri senza vedere tu. Ah, cazzo, perché devo comprare senza vederlo? E cosa capita? Non so nemmeno cos'è. Le zuppe che ha progettato Luca, ti interessa? A baratto. Ah, mi ha mandato qualche cicco sei tipi oggi. Già me le ha fatte vedere già. Dice che me la porta qua a fammela vedere però, a fammela vedere l'accende, vedeva un po' come, ma non le compro io, capito? Che Maria, te la compri la stufa, che Maria? Un surico, pare, fa vedere, io fa vedere. A te la compri la stufa, che Maria? Allora, inteso mai. fare dare aiuto. Tocca. Ehi. Aio canta. Canta che ne passa. Qua bisogna fare i seri, non c'è a cantare, no. Ma mari porta che la vediamo lui. Che mettiamo un negozio, apriamo un negozio e mettiamo in vendita. Aio, se fa feltro. In vendita subito li mettiamo. Ringraziamo la già prenotata. Mi la già prenotata. Quando la fate venda. Ehi, la fate venda, sentite un'incidenza con quello lucido buono, capito? No, io la voglio venda rifinita, con le maniglie, senti brucio un dito, Capito bello bene. In acciaio gliela sto facendo, e certo. Se no non prendi la butta. Va bene, la luce la catta rosa non la vonno. Ci vuole acciaio inossidabile, bella rifinita, con i piedini di gomma per non stare a contatto in terra col pavimento. L'acciaio, queste cose le guardo io quando vado a comprare. Ma tu lo sai che l'acciaio costa? E tu come lo vuoi, grazia? L'argento lo vuoi il tubo? Ah, va bene anche l'acciaio, quello lucido, da 5 mm già va bene. Allora, capito, hai io, un tubo che sia lucido è? Da 5 mm. Con un carrellino da buia devi buttare. Gli piace pure le ruote per il trasporto, no? Le ruotelle ci buio. Se la devi spostare con la maniglia, la sollevi alla berra e la fai camminare. Il buono guinzaglio, lo carruzzo. Il ruote buono e buono, E vivoni, no? Le maniglietti, le ruote. Ma pure te lo comando voi. Vai, tutto rurato in terra di Don Lampedusa. Un travaglio di 4 di 6. Tutto in terra, via. Aveva preso tutto in terra. Il latte, i pastori, lo sciopero che stanno facendo. Tutto in terra di Don Lampedusa. Anche sulla 131, arriviamo l'autobotte che stava venendo da Arborea e lì di Lampadu, la cisterna tutto il latte nei campagni, sparso. Ma allora non hai capito che quello lì invece buttava in terra avrebbero dato a poveri, cazzo, avrebbero fatto più bene, invece se li sono appesi invece dare a poveri. Capito? Ma cosa succede? Ava la riga nella fuori a ruote, a faccia verdi, e lei si muove il capo da quei ruoti. A chi sono protestelli maghissu mia, chi sono righelli ruoti dall'estero, da tutti i roghi, da fuori. E il latte sardo glielo stanno pagando una miseria ai pastori sardi. Chi ha preso di molto di fammi, si vuole arrigare, hai compreso? Ecco perché non gliene pagano di più ai pastori di latte, perché gli danno una miseria, perché il pasto già lo prendono da fuori per quel prezzo che vogliono offrirti loro, una miseria. E per la coppa dei negozianti che affondano, hai compreso? Dei negozianti che lo comprano, no, grazie, come tutti, ognuno guarda le proprie tasche. Quella te gliel'ho scritto io perché non darla ai poveri invece di buttarla, lo sai cosa mi ha scritto? A non preoccuparmi che quel latte non si può bere così, perché vuole trattato prima di berlo, perché se lo bevi così a dito di vasi mari. E dunque già lo danno loro ai poveri. Basta che vieni qui, mi ha detto, e te lo do il latte. Però ti do quello trattato che puoi bere. Questo non lo puoi bere, vuole lavorato prima. Mi ha detto, e allora ci metti in via, non bevo bene, ci sono tutto l'ampegni. E infatti adesso pure lavorate il latte, prima lo lavoravano. Quasi era un bacione ai vicini. Invece prima di dare i bisini bisogna travagliarlo. E gli aereva i bisini. Ma chi era? Era colorata, va, erorati. Ehi, ma quello che c'hanno questi bastoni? Non puoi vincere, e oramai il latte va trattato, capito? Perché può fare anche male, capito? A berlo così. Ecco perché gli ha risposto così quel bastone. Gli ho mandato un messaggio io, perché buttarlo e non darlo alla Caritas? Gli ho scritto che è un peccato. È anche una maniera di protesta. Lui era il povero invece l'ha fatto, ma ha riposo di chissà maniera. Luca! Luca, diglielo tu che sei intenditore di pastorizia. A che pastorizia, Luca? E Luca fa tutto. Ah, sei mugnino, Luca! Bello! Ma deve essere separato, dai, la stufa! Vai a prendere la stufa, chi sei il povero per fare a te? Ho appunto un po' con l'appassamento. E se avvi la camera da letto ti vengo un fumo. E un po' se fai fiamma vuol dire che da Luca. Tutti l'antenni a fare il bigliato un fuoco, Luca. Bello. Caruccio. Attaglia, batti l'immagine. Poi attaccato a Rubraceri e fa la stufa vicino. Non hai visto perché la protesta dei pastori hanno bloccato anche la 131. Tutte le macchine hanno bloccato. Pure a Canale 5 l'ha fatto vedere al telegiornale. Ah, l'ho vista ieri. L'ho vista da ieri e oggi pure l'ho visto. E pure oggi stanno protestando. Tutta la Sardegna, tutti i pastori, tutti. Sì, ma non risolvono, non hai capito ormai, non risolvono. O chiudono. Ma non ha capito che non fanno quello che voglio. Perché secondo loro quel latte che viene da fuori lo paga molto molto molto di meno il corriere, capito? E qua, questi qua il latte non lo vogliono perché costa troppo. Ma non è teso che hanno già fatto le minacce, che quando sbarcano le autobotte di latte di fuori l'arrivi lì, i fiocchetti alla cisterna. Non l'hai sentito? Invece la parte di latte questi devi bloccare le cisterne che arrivi. Bloccarli tutti, chi ci deve arrivare? Non la passare un attimo come ci hanno fatto. Sì, e tanto sono mattesi. Dai, se la parte non è che verrà a mettere l'ulatte. Ma loro quello l'hanno fatto in forma di protesta, per darlo alle cooperative che lo lavorano e lo mettono in blicchi e in bottiglie. E per ingrassarci i padroni, loro ce lo buttano. Ah, perché se avrebbero avvisato a noi, sarebbe andato quei bidoni e avevamo preso qualche bidone, vero Lu? Pure tutta la cisterna mi avevo pigliato. Oh, invece l'hanno buttato invece fare bene ai poveri. Infatti io gliel'ho commentato alla faccia della crisi, da Gio Cristo. Ma se andavi te lo davano, non è che non te lo davano, erano anche sulla 131, Luca, anche qua vicino, anche a Porto Torres, e hanno fatto vedere, io l'ho visto su internet, pure no, che il pastore che viso fare una pulciudora, pure quelli hanno fatto la dimostrazione, un'aia semma. Ma io dico una cosa, ma se ci rientrano quelli di fuori con le spese e addirittura a trasportarlo, quando mai non ci rientrano i sardi a venderlo qua? Quando mai non possono mettere lo stesso prezzo? Loro, le ditte glielo pagano al prezzo che pagano quello che viene da fuori, hai capito? Glielo vogliono pagare così. Ma è una miseria. E beh, logico, quello che viene da fuori se lo dà a quel prezzo. A chi i paesi suoi sono morendo di fame. Ho capito, vabbè, però non lo capiamo, oppure vabbè, la cosa è di tutti, anche la nostra ve lo compriamo da fuori, dal negoziante che lo compra da fuori, eccetera, eccetera, capito? Ehi, l'urosso, ma l'urosso è l'attivono, a chi? Cosa fa? Sbattore, agita l'autobotti, la strada, basta, rugame, gli dà direttamente il latte, poi lo portano alla centrale del latte, no? Quello che arriva da fuori bisogna vedere se è latti latti. Cosa ne sai se è latti latti? Oggi ho visto un programma che stanno sperimentando le bistecche bioniche fatte in laboratorio con delle cellule e la poi se ne la mangiano, non ha schifo. Non lo so, è perché la Cina se... si ammazzendo la Cina. Sì, ma tu a Tiramani io l'ho visto questa sera a quel programma dove studiano per fare le cose. Hanno fatto la bistecca, la fettina, la pece fusata e si la mangiata, gusta in disida, questi scienziati. Però tutte cose fatte con roba chimica, una goccia, sapete, una goccia di una cosa e ci dà una bistecca. Ma ve la vai? E le cellule ha messo, le cellule vive. Sono cresciuti a essi della bistecca. Ma che ci sarà un videomontaggio, Graziano, ancora siamo lontani da chi. Videomontaggio sarà fatto per... quel programma Pilli mi barzigiamma, quel programma che inventano il progresso. Ma sa cosa fanno? La carne, per esempio, arriva dall'Argentina a Sud America, ai luoghi arrivi, e la nostra gatta te la manda là sopra, capito là come ti fai? Come mette tutti i cosi, no? La roba lotta se la manda che dai, la roba dell'altro la regala ai luoghi, lo segui. Come il formaggio pecorino. Dai luoghi si mandano l'ulatti e dopo ti li mandano da Roma il formaggio pecorino sardo con l'ulatti buzziroso di Eti. Fatto giusto io, dai che si campagni circondari che sono tutti inquinati e tutti avvelenati, chi serva che fa? Tutta erba a forza di chimica, per carità, mentre invece no che mangia la roba genuina, gatta, è veramente genuina la roba nostra. Però a noi non si riparti di mangiare, ecco lo faccio per te. Mette bene la carne di chi dà la buona, magari è finta di concettivi e si manna che sta mi secca. La buona in un fuoco, in una graviglia e li mette adesso i centimetri. Tutte che me li zini il retto. Perché li gonfiano? Da poco ho visto adesso non mi ricordo in che paese era. Gli iadini erano i polli, erano tutti sgonfi, scheletri. E vera la catena di montaggio con i siringhi, vera nei femmini, li pigliava l'ubollo, li faceva la siringa e li faceva fondo più umano. E la sentava un garrello. Compreso. Bobo, no. Come ci si fa di questa ossa? Oh, ya. Madeincina.com. E lo dico a Paolo. E allora anche la radio, perché non le copriamo in Cina, e allora purtroppo non ci puoi fare nulla, ognuno va dove risparmia. L'importante è che funzioni bene l'apparecchio, l'importante è che purtroppo il latte non sappiamo cosa, come è fatto, come non è fatto, però ci manda avanti, Giammarì, capito? E a fine mese pare così, il latte lì, la pasta di là, il ghito di là, e a fine mese uno deve arrivare. La cosa è stessa. E io non se la mia lampada l'orazio. Caccia. Tanto Lucasio non sa mi fa pure vedere il massonico. E allora, fatti Lucasio e dopo il vedi, in un attimo faccio la patina. L'abbiamo acquistato e l'abbiamo guadagnato. Invece no. Ma se mi trovi bene, se ne ha fatto. Catta, torna il latte, torna il tre cubi di latte, catta, a cosa ti hai rampato? Dimmi tu, non lo so, tanto non è che vi rubaga leggissimo, è peggio, invece miglioranno, ho peggiorato la situazione. Chi si può che torna, dici, 4 giorni di lavoro ci sono qua, io, mio marito e mio figlio, va via, 3 cose, manni mi, in acciaio inossidabile. Tutte e tre piene di latte, appiccate a becco, tutte e tre le rubinette, tutte interrate dalla cadufara. E io, boh, roba mafia. Un'altra invece ha dato tutti i ribuchi, tirava a ricalcare e rimbizzava il mangime di ribuchi, a chi pare i ribuchi. Sì, ma sono sporco, so. Vedi, chi so ha fatto me se è andato a ribuchi, si fa i ribuchi? Vedi, chi ci ha fatto me? A manco non ha un introito da ribuchi. Chi ce l'ha dato tutta ribuchi? Il marito binava e aggarrava. Caspita, già ne aveva poco di porcilaie. Oh no, male hai fatto per tu, Invece tu, andato, abbiamo attaccato il carrello, l'abbiamo falato, chissà morte che fai la cabeciura. L'avevo fatto in diera di latte e ti l'abbiamo arrecato, se abbiamo fatto un ricordo e un guaggio. E mi ci andavi di rudazia, Nimi, l'ha detto Buru, che c'è in diretta. Chi lo vuole venga qui, glielo regalo, se lo porta via, tutto quello che vuole. Lu, mi pare il telefonemmo qui, e andiamo, il parito è Luca lì, onde fare di Lucoso, qui sono l'uomo le mando, mi fai la cabessuria, ma prepara domani, Luca, e chi sono fare il serbatoio, dai, il biodente che la birodeva, va, il biodaneva e domani andava a pigliare un attimo. E avanti lo guarda con il goccio, trucinata la capota della macchina, e vengo pure io. Ai, ai, io. Attacchiamo il carrello, lui. Ah, è parito, Luca, sta giusto che sei in più tenue, in un serbatoio che fa la capricciuglia. Luca, ma che ti fuoca la stufa, sì? Catta, mi ce l'hai rappato, mi latte, catta, boh, armani oggi, catta, oggi, catta, esso quanto latte ce l'hai rappato, catta, e la cunetta che è Maria, un fiume, Maria. Ehi, a te si ha fatto vedere a quel caseificio che c'è all'entrata ai chiesi, sono andati i bastoni, erano in bura del cancello, e sono cotti tutti i bidoni di latte in terra, a parte in 30 il cancello. Ha detto, boh, un peccato già. E intanto a me chi ti mi ha creduto così. Mi protesta pastori, uovo inquietante, inseguimento sulla 131. Vai giù, esci a vedere. Ho rotto a botte, sono pischienni, mi. Esci a vedere da aver scritto. Intendi no, che protesta pastori, nuovo inquietante, inseguimento sulla 131, vogliamo l'autista, non il latte, si stava speronando, non lasciatelo fuggire. Cosa vuoi? Ma io penso che non lo potevano fare nemmeno, credo, questo fatto che a buttarci il latte così, grazie. Penso che che non lo possiamo fare, perlomeno, io ho pensato così, che magari l'ho fatto, però non lo potevano buttare il latte. Senti questi, pastugli, aspetta te lo rimetto, così, va a far Napoli. Fermare, non si piace il mondo esso, e spreghiamo tua macchina noi, ma non firmala. Il camion non si riesce a farlo gravare, non so, di speronau, di ciocco, cercando la bacca, la sopremmo che trovi, e detto tu che sia un omeo. Non che dove stai fu io, e a questo salto stanno sull'arte con me. Inteso. Eia, adesso compresi me, poi alla gente si poco. E perché parla al sardo? So pisciene un'autocisterna, l'autocisterna ha cercato di... Non sei fermo, e allora so pisciene. Ma va che ci esci di sotto, esci lì, a metà di lì. Sì, noi che li sperone già con la cisterna che non si può filmare. Lo so pisciene, avami, è in diretta. Su internet, lo sta filmando col telefonino. Catta, va a vedere se continua a succedere qualche cosa grave. Oh, chi si macchi come ti sono pastorati? È capace a ammazzare l'autista, va, sì, se riesci a bloccarlo. A meno che no, non sei direttamente, chi ha cattato che pattuglia e si ferma. E se no è un casino, di chi riesci nella mara, eh? Se è fastro, eh. E ciascio, ma è colpa l'autista, l'autista è travagliente. Mi agita, mi te. Inteso. Atta. E chi non è gente male, gente risulta che non ti vieni a porre le mani in alto, devi stare attento l'autista, catta, boh. E ha detto che avevo l'autista, non rugami, avevo l'autista che lì la spero rendi, non hai compreso. Poi bisogna l'autista, anche se un minimo lo gribano, se riesci a bloccarlo. A bloccarlo lo fai sacchito e fai il zigzag con un rimorchio. Bobo, e chi c'è? Cosa che fai il lavoro a me? L'automotte sì, e chi ti sono i bastoni? Di nuovo, l'automotte di fuori. Bobo, ma gli hanno bloccati là. Avvio. Ci ha pensato di strovarli, cazzo, la parola di chi si decide di bloccare, su salire da recuperi. Signore Cannani Buru, chi si va, si riesce a bloccarlo, non è segnale a malavvero, mi. Oi, stai le camminando un bel, ma un bel, un bel. Buh. Vabbè dai, no, che condividi questo schifo, arrivati una, due autobotti, andarete però per la finanza, andarete ai autobotti. Allora sono attrezzati, handicap, signori, no, che si va di pura, così che c'è la scorta, così che non fate niente, va. Vai due, in Sardegna caccia i camion, autocisterna inseguita nel Nuorese, video. Ci c'è un altro, bello video, e so pescicani l'autocisterna, i pastori seguono il camion. Se la ciappa si rompe male, le ugava dalla cabina di recudi, dentro la cisterna di recudi. Niente, azzì. Intesi dai, so andare da all'autobotte che ti prima sa! Speravo non succedere niente di grave, Speriamo bene, capito, che un macello è, per carità. Se non si vuole in guaio, si vuole niente. speriamo bene, va. Chi c'è un altro, mi armate i bastoni obbligano la ottizza a rovesciare il latte dalla cisterna. Dipendente terrorizzato, e non che l'hanno bloccato, mi sono fatto la pa tutta ruota che era l'armata di bastoni. Meno male non si mi sa, sali lui, per tu casa grazia. Mi minaccia al casificio di Argiolas, arriva, oh yeah, pure i casifici sono minaccendi, mi, pure questo di Ghisi. E chi è? Muore in carcere il marito che cercò di uccidere la moglie con la roncola. Molto, Quelli sono già penabili, quelli sono già penabili. Aspetta che c'è qualcuno che ha breccato. Avanti, ha salutato. Ah, già sei di qua con abito. Io pensavo che t'avevo preso. Oh, avvero siete? Beh, di graziare non siete, sì. La gente si dia vittoria, se forse hanno il biliardo. Ripeti, grazie a lui, buonasera. Grazie, mia vittoria, di viro. Non lo sentono, dove? Non lo sento per niente. Dili chi si va a me, dili chi si va a me a Ed, già ti intendo a te. E cosa? Chi si va a me a rimani? E cosa? Non mi lamento, così da. Vabbè, là, se lo vogliamo, là. Dai qua, non abbiamo pensato al male, però già sei qua, tranquillo, allora abito. Eia! Come mai Graziano non ti sente? E Luca si è fatto sentire? Luca, mi sembra che hanno tagliato la questione, l'hanno tagliato ieri. Ed è il valido oggi. L'hanno tagliato la questione ieri, e allora è il valido oggi. Ho capito, ho capito. Ok, grazie. Cosa ha detto? Boh, strano che non lo senti, però come mai lo sentivi sempre? Boh, appaitami i nocchi bene, una pattuglia, due pattugli carabinieri e due autobotti, e i bastoni sono appossati. Nonostante mi sono i carabinieri, si sono appossati, mi. Se no così mi cacca fucilata e autobotti, me, una, due, mi due, tre, tre autobotti, o tu pattugli di carabinieri appresso, vale. Aggiunto una cosa, mi pare che si brutta. Secondo me si brutta, sì. Vai tu, me, sei qua. Tutto Rulatti, lì, da dentro la centrale di Rulatti, tutta la carinata di là di lampada, dove? Senti, c'è un fiume, pare. Vito! Giomari! Dove sei? Dimmi, Giomari, dimmi tutto, sono alla stessa disposizione. Non ho capito, no. Ho detto, sei chiamato, e sono qua. Ma Sorizia, dove ti trovi adesso? All'oratorio, però dall'altra parte dell'oratorio, perché per questo lì ci sono troppi segnali che occupano, quindi può darsi che Graziano non mi senta bene. Se sei dentro magari non ti sente, ma è strano, e sei più vicino a lui di me. Cazzo, ti dovrebbe sentire, e forse alla parte opposta Graziano, Graziano, dove sei, cucina? Sì! Cazzo, ma si trova all'oratorio, gatta, e tu non lo senti. Dipende da dove è lui. Grazie, mi senti, 1, 2, 3, passo. Me lo fai. Ti stava chiamando Vittorio, L'ho sentito un pezzettino piccolo e poi è sparito, Vito, fatti sentire da Graziano, vai. E a dita la prossima, va. Lagaro giugà, lagaro giugà, orie. Boh. dai, chiudo, grazie, dai, ci sentiamo domani, dai, se Dio vuole, se coincide, saluto in casa, buon proseguimento, e chiudo, dai, che c'è da fare cosa, grazie, a domani, ciao! Ciao Luca, a Sarrato, vabbè, ciao, a domani! Ehi Luca, dove sei? A Russell di Gosci di Pollo! Ehi, vedi d'anghitta! Vero tu, a Russell di sì! Ma allora va, che cosa in bocca la famiglia va? Va a parlare a Ravanella! Ehi, vabbè, da! Ciao, a domani! E tu sveglio sei tu? Dammi tu, chiama, dammi tu. No, sono dormito. Ah? No, ferendo sto, non sto andando, ferendo sto. Vabbè, sto chiudendo, vai. Ciao. Ciao, mi bloccata l'ani. Tu trovate in terra, lì ci sto chiudendo, sulla 131. Beh. Tu sei in terra. Ah, bloccato l'ani. Sì. Lascialo fare, lasciali fare, lasciali fare. Non si è sentito bene, no? Cosa hanno detto, no? Perché c'era molto quel rem. Gli ha detto, bastardo, non si vuole fare un padroncino. Anche l'autobotte era suia, che c'è autista. A parte se l'hanno bloccato, mi, eh? Ehi, già lo credo, si vuole bloccare, sì. Specialmente se non c'è la scorta. Evidentemente non c'era scorta, io vi l'avevo bloccato, ma io, anche se non lo abbia bloccato, eh. No, io ci scorta non avevo, là, la 3-3 che ha giunto gli avvera, li ho tubato gli carabinieri, ad avanti e in mezzo tra un'autobotta e l'altra. Va bene, va, chiudo, grazie, ciao. Ciao. Ciao, domani, grazie. Ciao, ciao, sto chiudendo, a domani, se coincide, ciao. Ma a te ti chiamano e non rispondi, non ti chiamano e non rispondi, tu, boh.